Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Arganti, il traghettatore, questa puntata è dedicata al greenwashing. Cerco di spiegarvi che cos'è il greenwashing. Vuol dire che l'azienda investe dei soldi in pubblicità, in marketing, in azioni di comunicazione per dimostrare al pubblico di essere un'azienda sensibile e attenta alle tematiche ambientali. Questo vuol dire, non vuol dire però necessariamente che lo sia di fatto, perché se i soldi li spende per la pubblicità, per la comunicazione, anziché spenderli realmente per contribuire alla salute dell'ambiente, allora questo è il greenwashing, un'azienda che finge sostanzialmente di essere verde. O se volete non finge, ma insomma alla fine non riesce ad essere efficace. A questo aggiungiamo anche, insomma, un esempio su tutte, la sigaretta bio, per esempio. La sigaretta bio è un esempio di come un'azienda che vende un prodotto decisamente dannoso alla salute, con la semplice aggiunta della parola bio, pensa di avere dato di sé un'immagine green. Oggi dedichiamo la puntata a questo attraverso una ricerca, la testimonianza però anche di chi giudica se una campagna è greenwashing o meno, e poi parliamo con le Marche. Altro che bianco, è meglio il verde che lava più verde. Vizi e virtù del greenwashing all'italiana. Ma gli editori non stanno a guardare. Ecco come e se funziona l'autodisciplina pubblicitaria. E le Marche? Greenwashing va de retro, fa male alla reputazione e perciò ai bilanci. Parola di Centromarca. Insomma, siamo tutti d'accordo, sono tutti d'accordo sul fatto che greenwashing non fa bene, però si verificano queste cose, o perlomeno è quello che sostiene Greenbin, che è un'agenzia di comunicazione che si occupa di temi della sostenibilità. Alessio Alberini è qui con noi. Ciao Alessio. Buongiorno. La tua agenzia ha fatto una ricerca da cui si evince che in effetti il fenomeno è, se non diffuso, comunque fortemente presente. Sì. Noi in questa puntata, però, prima di lasciarti presentare la ricerca, abbiamo pensato di scandire la puntata e gli ospiti in studio con alcune pillole brevissime degli errori più diffusi che proprio voi avete individuato. Sentiamo la prima. Greenwashing è evidenziare una singola caratteristica ritenendola sufficiente per classificare come green il prodotto, ignorando completamente altri aspetti più importanti. È il comportamento più diffuso, 18 i casi eclatanti. Di fatto, quasi tutte le campagne analizzate cadono in questo errore. Quindi Alessio, la percentuale mi sembra, adesso senza voler fare una statistica generalizzata della vostra ricerca, immagino che sia emblematica più che significativa statisticamente, ecco, quante ne avete analizzato di campagne? Allora, la ricerca, diciamo, è stata condotta sulle campagne stampa che sono state pubblicate dal 1 gennaio 2008 al 31 maggio 2010, usando delle parole chiave legate a questo tema per estrapolarle. Abbiamo trovato 151 marche che hanno parlato di queste tematiche, 83 marche in particolare che ricercavano un posizionamento green attraverso comunicazione, 53 sono poi state classificate da noi come evidenti casi di greenwashing con sei modalità diverse. Diciamo. Sei modalità diverse che sono la prima delle quali quelle che abbiamo indicato noi. Sono aziende, Alessio, sono aziende italiane, sono aziende multinazionali, sono piccole, sono grandi, sono tutte? Noi abbiamo analizzato le campagne stampa perché questo ci permetteva di avere un'ampia categoria di marche, essendo un mezzo ancora abbastanza accessibile dal punto di vista pubblicitario. Quindi c'era l'azienda straniera, l'azienda multinazionale, l'azienda italiana grande, l'azienda italiana piccola, insomma, c'era veramente di tutto. E avete scelto solo la campagna stampa perché, rispetto, che ne so, per esempio a quella televisiva o per restare nel nostro ambito radiofonica? Primo motivo perché la campagna stampa è, per definizione, la stampa aiuta a raccontare e a spiegare, perché puoi scrivere molte cose, puoi pubblicare tabelle, insomma si presta a raccontare questi temi. E poi per il motivo che dicevo prima, perché essendo un mezzo ancora relativamente economico ci ha permesso di individuare una numerosità di marche ben più elevata di quanto non sarebbe successo se avessimo analizzato, per esempio, solo la TV. Canalizziamo un attimo questi errori. Il primo che abbiamo segnalato è evidenziare una singola caratteristica ritenendola sufficiente per classificare come green il prodotto. Cosa vuol dire esattamente? Ma diciamo che quello che è appunto l'errore più grave e più frequente, che cosa significa? Significa aver individuato nel prodotto una caratteristica, grande o piccola che sia, effettivamente green, ma poi utilizzarla, diciamo, stiracchiarla, ampliarla, amplificarla per far sì che tutta l'azienda, tutto il brand sembri effettivamente sostenibile, quindi ignorando poi di fatto tutta una serie di altri aspetti che possono poi portare a dire che quel prodotto è tutt'altro che green, anche se ha quella caratteristica. Bene, sentiamo un altro degli errori diffusi, così lo commentiamo assieme ad Alessio Alberini. Greenwashing è comunicare caratteristiche green che sono irrilevanti e non inserite in una visione sistematica della sostenibilità. Per esempio, la compensazione di emissioni di CO2 relative a un singolo evento con un progetto di riforestazione farebbe diventare green la marca o il prodotto di riferimento. Alessio, spiegaci allora questo errore. In questo caso l'errore da cosa deriva? Deriva dal fatto di, ancora una volta, e ignorare quelle che sono le caratteristiche del proprio ciclo produttivo, del proprio prodotto, della propria catena di fornitura, concentrarsi su un aspetto magari anche esterno come può essere un progetto di riforestazione, di compensazione, comunque lodevole in quanto tale, ma che però è altro, è terzo, è diverso, non è nell'azienda, è un qualcosa che l'azienda fa ma che non nulla ha a che fare con la propria attività, con il proprio prodotto. Quindi è un modo un po' per distrarre l'attenzione da ciò che sono e per focalizzarlo su ciò che faccio non rilevante per la mia attività, nella mia attività. Chiaro. Alessio, se puoi restare con noi, abbiamo altre due schede poi che ti chiediamo di commentare, ma adesso chiamiamo in causa un altro dei nostri ospiti che è, come dire, vagamente intimidatorio, Vincenzo Guggino. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao. Tu sei segretario generale dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, ecco perché è vagamente intimidatorio, chiaramente stavo scherzando, però l'Istituto di Autodisciplina ha comunque dei poteri di inibizione vera nella comunicazione. Certamente, l'Istituto opera da oltre 40 anni e deve la sua forza e anche il suo prestigio al fatto che quasi tutti gli operatori della comunicazione commerciale riconoscono il suo codice e si obbligano a rispettarne i precetti e anche le decisioni. Quindi abbiamo le aziende, le agenzie e i media. Esatto, autodisciplina, perché chi gestisce questo istituto sono gli stessi, come dire, sanzionati possibili. Mi permetto di dire che è quelli che hanno dato vita all'istituto. Poi in realtà l'istituto ha degli organi giudicanti che sono del tutto indipendenti dal mondo della pubblicità, sono quasi tutti cattedratici, presieduto per esempio il giurì da magistrati, e agiscono in assoluta indipendenza. Certo. E questo conferisce credibilità ovviamente al sistema. Altra grande forza è la velocità con cui questi giudizi vengono emessi quando ancora la campagna è in corso. Si chiama autodisciplina perché il codice è stato firmato da tutti e viene accettato e riconosciuto da tutti. Certo. E ecco, in quanto al tema della nostra puntata, il greenwashing, voi lo riconoscete come reato, fra virgolette? Il greenwashing è una vecchia conoscenza dell'autodisciplina. Se addirittura una decisione risale al 1989, dove già si approfondiva la possibilità di utilizzare il termine ecologico. E in quell'occasione venne fuori in maniera molto chiara che non poteva attribuirsi questa caratteristica a un prodotto che forse era meno nocivo di altri, ma comunque non ecologico. Quindi in qualche modo si gettavano le premesse per poi questo sviluppo, ecco, di questa tematica che c'è stata negli anni successivi. Vabbè, 89 è comunque geniale, voglio dire, fra virgolette, che era un antesignano della cultura ambientalista che ancora all'epoca, insomma, era agli albori. Nel senso che si attribuiva al termine ecologico un fare attivo e non meno passivo. Questa giurisprudenza, che poi è stata ripresa, ha condiviso però lo spazio con un'altra che in qualche modo però ha voluto incoraggiare lo sforzo delle aziende in una direzione di maggior rispetto dell'ambiente. Un caso famoso di una casa automobilistica che usò lo slogan "difende l'ambiente", che ovviamente può sembrare molto paradossale per una casa automobilistica, però riuscì a dimostrare che tutto il processo produttivo, sia di costruzione dell'automobile che dell'automobile stessa come consumo di CO2, rendeva credibile questa affermazione. Quindi questo sforzo va premiato in qualche modo, spendendolo anche in comunicazione. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Stiamo parlando di greenwashing, delle aziende che vogliono apparire verdi e che magari fino in fondo non lo sono, con Alessio Alberini di Greenbin, che ha un'agenzia che ha fatto una ricerca su questo, abbiamo già commentato alcuni aspetti, e con Vincenzo Cugino, che è segretario generale dell'Istituto di Autodisciplina. Vincenzo, capita spesso quindi di sanzionare aziende e campagne pubblicitarie che fanno greenwashing? Allora, dal nostro osservatorio non sono tante le campagne in generale che utilizzano claims ecologici. Abbiamo dei casi recenti che possono essere interessanti, per esempio sull'uso del prefisso eco. Per un detersivo abbiamo avuto ecodosi e si è discusso se questo eco attinesse alla tutela ambientale piuttosto che al risparmio economico, e in assenza di altre indicazioni che facessero propendere per la lettura in chiave ambientale, il jury ha assolto, perché effettivamente c'è un risparmio. Poteva essere economico, quindi molto furbi. E chi era questa azienda non ce lo puoi dire, ovviamente. Basta consultare la nostra giurisprudenza, è facile trovarla. E quindi il sito qual è, già che ci siamo? È www.yap.it. Così chi è curioso di sapere chi è il furbastro di Eco. No, in questo caso non è stato un furbastro, era lecito. E l'altro prefisso... No, vabbè, però l'Eco richiama comunque, volente o nolente lo richiama, no? Però, insomma, se uno si legge la motivazione capisce... Va bene, no, nessuno mette in discussione. E l'altro prefisso sdoganato, per così dire, è Ecopelle, che anche lì potrebbe far pensare a una pelle ecologica, ma è ormai uso comune considerare una pelle non fatta col cuoio, quindi non uccidendo animali, e da questo punto di vista forse è giustificato il concetto di eco. Ecosostenibile al 100% invece non è passato, perché è veramente arduo pensare che un ciclo produttivo possa non produrre effetti negativi ambientali, certo, sotto forma di petrolio, energia e quant'altro. Bene, Vincenzo, grazie, buon lavoro, occhi aperti, perché comunque i consumatori contano su di voi, e buon lavoro. Senz'altro, e io aggiungo che è molto importante stare attenti sul greenwashing, perché ledere la credibilità sul tema ambientale significa ledere la fiducia anche nello strumento pubblicitario. Certo. E noi continuiamo con l'evidenziarvi, segnalarvi quali sono gli errori più diffusi con Alessio Alberini, che è ancora in linea, corretto? Esatto. Greenwashing è fornire dati e informazioni presentandoli come certificati, ma da se stessi, senza l'intervento di una terza parte indipendente che garantisca procedure e veridicità. Talvolta sono apposte anche finte ecolabel sull'annuncio o sulla confezione. Traduciamo, Alessio, allora, in parole più povere questo concetto? In valore più povere, in parole più povere, si tratta semplicemente di garantire, di assumersi l'arroganza, la presunzione di garantire le informazioni che vengono date senza aver magari interpellato qualche ente terzo che possa comunque avvallare queste considerazioni, queste valutazioni. Quindi prendere un po' posizione, garantisco io, fidati, però in realtà senza averne l'autorevolezza, la trasparenza, la credibilità per poter fare un'affermazione di questo tipo. E andiamo a casa dei soggetti più interessati, le aziende. Ivo Ferrario, ciao, direttore di relazione esterna di Centromarca. Ciao. Salve. Ciao. Stiamo parlando, tu non hai sentito, ma insomma ti sottolineo una cosa, perché tanto il greenwashing lo conosci benissimo come fenomeno. L'ultima battuta di Vincenzo Cugino, salutandoci, dello IAP, era: attenzione che il greenwashing non è soltanto falso ideologico nei confronti del consumatore, ma danneggia la pubblicità stessa, perché perde credibilità a uno strumento che è vitale per le aziende. Sì, ma direi che sono assolutamente d'accordo, ma penso che questa consapevolezza si stia facendo largo anche nel mondo delle imprese. Direi che nella marca è fortemente presente, tant'è che noi come Centromarca su questo tema, su questa problematica, abbiamo organizzato una riunione con circa 180 manager provenienti da tutta Italia, proprio per trovare delle modalità nuove, meno tra virgolette pelose, per parlare di quanto viene fatto sul fronte dell'ecoefficienza e della sostenibilità. Anche perché, diciamoci la verità, è il tema del momento, è un tema prezioso per il marketing e per la comunicazione. Ma poi c'è una cosa da dire anche ai radioascoltatori, cioè che non esistono sostanzialmente aziende sostenibili in sé, ma esistono delle aziende che sono orientate alla sostenibilità, con tutto anche il portato poi di debolezze, di criticità, di contraddizioni che questo orientamento alla sostenibilità comporta, insomma. Quindi è un impegno importante, forte. Devo dire che soprattutto in questo momento di crisi economica forte, la sostenibilità, l'ecoefficienza diventano sia dei valori in senso assoluto, ma anche dei valori in termini economici per noi, quindi è molto importante lavorarci comunque indipendentemente da quello che poi si comunica, no? Questo è fuori di dubbio. Ma infatti, così per andare sulle parole semplici, ma un'azienda che fa comunicazione dicendo sono ecologica rispetto ad un'azienda che lo fa realmente, un'ottimizzazione dei processi, la prima spende soldi in pubblicità, ma la seconda risparmia anche cifre importanti. Chi opera nel senso sostenibile è dimostrato, fa bene anche al bilancio, non solo all'immagine. Certo, ma le dichiarazioni su quello che si è fatto vanno fatte, scusa il gioco di parole, dopo che si sono concretizzati gli interventi, si è performato, si è portato un delivery, una prestazione che va nella direzione giusta, quindi bisogna avere i numeri che confermano quello che si sta facendo. In passato, se dobbiamo fare autocritica, sicuramente si è fatta della comunicazione, ribadisco, molto verde, molto orientata. Devo dire che forse questa epoca ormai ce la stiamo lasciando dietro le spalle, c'è molta più cautela e attenzione. Ogni azienda poi ha una storia a sé, ogni azienda è diversa ovviamente, ma il mood generale è di grande attenzione al sistematizzare i numeri, a portare poi cose che effettivamente impattino sull'ambiente. Questo è un elemento fondamentale. Una battuta per chiudere, Ivo, sei stato chiarissimo, anche per chi ci ascolta e magari non ha sentito parlare di Centromarca. Centromarca è l'associazione che raggruppa tutte le più importanti grandi marche che operano in Italia, sono italiane e straniere, sono più di 200, sono qualche migliaio di marchi più noti pubblicizzati in televisione. Parliamo quindi del salotto buono, dei prodotti che quotidianamente soddisfano il cittadino. Il 70% dei consumi in Italia è fatto con prodotti di marca. E quindi avete tutto l'interesse di proteggere il valore della marca anche attraverso, come dire, la virtuosità nella comunicazione. Assolutamente. Grazie Ivo, buon lavoro. Buon lavoro. Ci sentiamo. Noi torniamo all'ultima scheda di quella che abbiamo preparato per spiegarvi gli errori più diffusi e sentitela. Greenwashing è utilizzare visual o parole che evocano una sensibilità ambientale che non corrisponde alla realtà. Un modo per attirare l'attenzione su una semplice comunicazione commerciale, tingendola di verde. Alessio Alberini, allora traduciamo questa ultima scheda. Questa ultima scheda diciamo che è molto semplice da comprendere, nel senso che si trovano spessissimo campagne che hanno come visual, come immagine, intendo dire, utilizzata, non so, boschi, cieli azzurri e quant'altro, questo per evocare in maniera abbastanza semplicistica un contesto green, poi dopo invece la comunicazione che portano nulla a che fare con questi temi, quindi semplicemente un modo per attirare l'attenzione del lettore, del consumatore sulla campagna, per poi andargli a parlare di cose promozionali o con la sostenibilità nulla hanno a che vedere. Bene, grazie anche di aver fatto questa ricerca, perché comunque effettivamente è interessante che ci sia chiarezza sui pericoli, visto che viviamo l'era ecologica, è importante che i consumatori sappiano distinguere il reale dal fittizio. Grazie e buon lavoro Alessio Alberini. Grazie a voi, buona giornata. Grazie anche, come al solito, ad Anita Panizza redazione e a Carmelo Lauricella in regia. Il programma, vi ricordo, potrete riascoltarlo anche su www.radio24.it. A risentirci.